poco a poco il cielo spento si illuminava. Io, che fino allora non m'ero mai svegliato senza sorridere alle cose più umili, alla scodella del caffè latte, al rumore della pioggia, al rombo del vento, sentii che il giorno che sarebbe spuntato fra un istante e tutti i giorni che gli sarebbero succeduti non m'avrebbero più portato, mai più, la speranza d'una felicità sconosciuta, ma il prolungamento del mio martirio. Tenevo ancora alla vita, sapevo di non doverne aspettare più niente che non fosse crudele. Corsi all'ascensore, malgrado l'ora indebita, e chiamato il lift, che svolgeva le funzioni di guardiano notturno, gli chiesi d'andare alla camera di Albertine per dirle che avevo qualcosa di importante da comunicarle, se poteva ricevermi. «La signorina preferisce venire lei», tornò a rispondermi. «Sarà qui fra un istante». E presto, infatti, entrò Albertine, in vestaglia. «Albertine», le dissi molto piano e raccomandandole di non alzare la voce per non svegliare mia madre, dalla quale ci separava quella parete la cui esiguità in quel momento importuna e tale da costringerci a bisbigliare assomigliava un tempo, quando vi si dipingevano così bene le intenzioni della nonna, a una sorta di diafanità musicale. «Mi vergogno a disturbarvi. Ecco, per farvi capire, devo dirvi una cosa che non sapete. Quando sono venuto qui, ho lasciato una donna che stavo per sposare, che era pronta ad abbandonare tutto per me. Doveva partire stamattina per un viaggio e ogni giorno da una settimana mi chiedevo se avrei avuto il coraggio di non telegrafarle che tornavo. L'ho avuto questo coraggio, ma ero così infelice che credevo che mi sarei ucciso. Per questo ieri sera vi ho chiesto se non avreste potuto dormire a Balbec. Se avessi dovuto morire, mi sarebbe piaciuto dirvi addio». E diedi libero corso alle lacrime che la mia finzione rendeva naturali. «Povero piccino, se avessi saputo, avrei passato la notte accanto a voi», esclamò Albertine, nemmeno sfiorata dall'idea che forse avrei sposato quella donna e che sarebbe così sfumata l'occasione di fare lei un buon matrimonio. Tanto era sinceramente commossa da un dolore di cui potevo nasconderle la causa, ma non la realtà e la forza. «Del resto», riprese, «avevo ben sentito ieri tutto il tempo, mentre tornavamo dalla Raspellière, che eravate nervoso e triste. Temevo che ci fosse qualcosa». In realtà la mia tristezza non era cominciata che a Parville, e il nervosismo, ben diverso ma che fortunatamente Albertine confondeva con quella, derivava dalla noia di dover passare ancora alcuni giorni assieme a lei. Albertina aggiunse: «Non vi lascio più, non mi muoverò di qui». Mi offriva proprio, e lei sola poteva offrirmelo, l'unico rimedio contro il veleno che mi bruciava, adesso omogeneo d'altronde. Quello dolce e questo crudele venivano entrambi da Albertine. In quel momento Albertine, la mia malattia, smettendo di provocarmi sofferenze, mi lasciava, lei, l'Albertine rimedio, intenerito come un convalescente. Ma pensavo che presto sarebbe partita da Balbec per Cherbourg e da lì per Trieste. Le sue antiche abitudini sarebbero rinate. Ciò che volevo prima d'ogni altra cosa era impedire ad Albertine di prendere quella nave, tentare di portarla a Parigi. Da Parigi, certo, se avesse voluto, avrebbe potuto più facilmente, ancora che da Balbec, andare a Trieste. Ma a Parigi si sarebbe visto. Forse avrei potuto chiedere a Madame de Guermont di agire indirettamente sull'amica di Mademoiselle Vinteuil perché non rimanesse a Trieste, per farle accettare una sistemazione altrove, forse in casa del principe X, che avevo incontrato da Madame de Villeparisis e dalla stessa Madame de Guermont. E costui, se anche Albertine avesse voluto andare a casa sua per vedere l'amica, avrebbe potuto impedire, preavvertito da Madame de Guermont, che le due si incontrassero. Certo, avrei potuto pensare che a Parigi, se Albertine aveva quei gusti, avrebbe trovato chissà quante altre per appagarli. Ma ogni moto di gelosia è particolare e porta il marchio della creatura, in quella circostanza l'amica di Mademoiselle Vinteuil, che l'ha suscitato. Era lei, l'amica di Mademoiselle Vinteuil, la mia grande preoccupazione. La passione misteriosa con cui un tempo avevo pensato all'Austria, perché era il paese da cui veniva Albertine, suo zio vi era stato consigliere d'ambasciata, e perché la sua peculiarità geografica, la gente che vi abitava, i suoi monumenti, i suoi paesaggi, potevo contemplarli come in un atlante, in un album di immagini, nel sorriso, nei modi di Albertine, questa passione misteriosa la provavo ancora, ma per un'inversione di segni, nel dominio dell'orrore. Sì, era da là che veniva Albertine. Era là che, in ogni casa, era certa di incontrare o l'amica di Mademoiselle Vinteuil o qualcun'altra. Le abitudini infantili sarebbero rinate quando, di lì a 3 mesi, ci si sarebbe riuniti per Natale, per Capodanno, date che mi riuscivano già tristi per se stesse, per l'inconscio ricordo della pena sofferta quando una volta mi separavano per tutta la durata delle vacanze di fine anno da Gilbert. Dopo i lunghi pranzi, dopo i veglioni, quando tutti sarebbero stati allegri, animati, Albertine avrebbe preso con le sue amiche di là le stesse pose che l'avevo vista prendere con André, quando la sua amicizia per lei era innocente, o forse, chissà, quelle che avevano unito a Montjuven sotto i miei occhi, Mademoiselle Vinteuil e l'amica che la inseguiva. A Mademoiselle Vinteuil, nel momento in cui l'amica la stuzzicava prima d'abbattersi su di lei, io prestavo adesso il viso infiammato di Albertine che sentivo ridere, mentre fuggiva e poi mentre s'abbandonava di quel suo riso strano e profondo. Cos'era, in confronto a questa sofferenza, la gelosia provata il giorno in cui Saint-Leu aveva incontrato Albertine con me a Doncières e lei ci aveva un po' civettato? E quella provata pensando all'iniziatore sconosciuto verso il quale ero forse debitore dei primi baci che lei mi aveva dati a Parigi il giorno in cui aspettavo la lettera di Mademoiselle d'Estermaria? Una gelosia siffatta, quella provocata da Saint-Leu, da un qualsiasi altro giovanotto, non era nulla. Al massimo, in quel caso, avrei potuto temere un rivale sul quale avrei cercato di prevalere, ma qui il rivale non era simile a me. Le sue armi erano diverse, non potevo lottare sullo stesso terreno, dare ad Albertine gli stessi piaceri e nemmeno concepirli con precisione. In molti momenti della vita scambieremmo volentieri tutto il nostro futuro con un potere in sé insignificante. Un tempo avrei rinunciato a tutti i privilegi del mondo per conoscere Madame Blatin, perché era amica di Madame Swann. Oggi, perché Albertine non andasse a Trieste, avrei sopportato qualsiasi sofferenza e, se non fosse bastato, ne avrei inflitte a lei. L'avrei isolata, rinchiusa, le avrei portato via il poco denaro che aveva perché l'indigenza le impedisse materialmente di mettersi in viaggio. Come un tempo, quando volevo andare a Balbec, ciò che mi spingeva a partire era il desiderio di una chiesa persiana, di una tempesta all'alba. Adesso, pensando alla possibile partenza di Albertine per Trieste, a straziarmi il cuore era l'idea che vi avrebbe passato la notte di Natale con l'amica di Mademoiselle Vinteuil. Giacché l'immaginazione, quando cambia natura e si trasforma in sensibilità, non dispone per questo d'un maggior numero di immagini simultanee. Se mi avessero detto che quella donna, in quel momento, non si trovava né a Cherbourg né a Trieste, che non avrebbe potuto incontrare Albertine, quante lacrime di dolcezza, di gioia avrei versate! Come sarebbero cambiati la mia vita e il suo futuro! Eppure, sapevo bene che questa localizzazione della mia gelosia era arbitraria, che se Albertine aveva quei gusti poteva pagarli con altre. D'altronde, quelle medesime fanciulle, se avessero potuto incontrarla altrove, non avrebbero forse così atrocemente torturato il mio cuore. Era da Trieste, da quel mondo sconosciuto in cui sentivo che Albertine era felice, in cui stavano i suoi ricordi, le sue amicizie, i suoi amori infantili, che si sprigionava questa atmosfera ostile, inesplicabile, simile a quella che saliva un tempo sino alla mia camera di combré e dalla sala da pranzo dove sentivo conversare e ridere con gli estranei fra il rumore delle forchette la mamma che non sarebbe venuta a darmi la buonanotte, o a quella che aveva riempito per Swan le case in cui Odette andava a cercare la sera inconcepibili piaceri. Non era più adesso come a un paese delizioso dove la gente riflessiva i tramonti dorati, gli scampanii malinconici che pensavo a Trieste, ma come a una città maledetta che avrei voluto bruciare all'istante e far sparire dal mondo reale. Questa città era piantata nel mio cuore come una punta inamovibile. Lasciare che, fra poco, Albertine partisse per Cherbourg e Trieste mi faceva orrore, e anche rimanere a Balbec. Infatti, adesso che la rivelazione dell'intimità della mia amica con Mademoiselle Vinteuil era per me quasi una certezza, mi sembrava che in tutti i momenti in cui Albertine non fosse stata con me, e c'erano giorni interi in cui a causa di sua zia non potevo vederla, sarebbe stata preda delle cugine di Bloch, forse d'altre donne. L'idea che quella sera stessa avrebbe potuto incontrare le cugine di Bloch mi faceva impazzire.